presa che non ho mai perso. E non c'è ostacolo oltre al nostro di dirsi la verità. Io non ho mai smesso di crederci, so che adesso cambierà. Yeah.